sera trema le stelle, sopra ogni culla discende un velo. Oh, quante mamme vegliano, quante pupille azzurre come il cielo. Carta ogni mamma, socchiudi gli occhi, sogna tesoro, tanti balocchi, mentre il tuo cuore riposa, nei sogni tuoi rosa, sorridi così. Sorridi alla tua mamma, amore, che sempre veglierò per te. Sorridi a chi t'ha dato il cuore, perché solo una mamma c'è. Passano gli anni, crescono i bimbi, l'amor l'infiamma, quel mondo si disperdono, questo è il destino d'ogni vecchia mamma. Eppure ognuna, pallida e stanca, risogna un bimbo, la culla bianca, sogna di stringere l'ancora, e il labbra sua sfiora, l'antico canzon. Sorridi alla tua mamma, amore, che sempre veglierà per te. Sorridi a chi t'ha dato il cuore, perché solo una mamma c'è, ninna nanna della vita, che ogni mamma